Sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.12 e tramonterà alle 18.39. Domenica ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno ad Armando Mucchino e Rita Micoli. Coldiretti Giovani Impresa da 13 anni promuove il concorso Oscar Green, progetti di giovani agricoltori che si occupano di sostenibilità e innovazione. Due si sono classificati per le finali nazionali, ne sapremo di più nel servizio di apertura. Il consumo di carne e il relativo dibattito, spesso acceso, è al centro del corsivo di Enos Costantini, per passare poi alla rubrica delle normative che ci parla della classificazione dei prati. A seguire una nuova puntata sull'universo dell'olio e degli ulivi con l'inquadramento della realtà italiana caratterizzata da decine di varietà. Il Castello di Cordovado con il suo labirinto di rose è al centro dello spazio che dedichiamo ai giardini, mentre prosegue il viaggio di Sandro Menegon sulle prassi di utilizzo del concime per antonomasia, il letame. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Creare un habitat favorevole alla vespa samurai, l'antagonista della cimice asiatica, la riscoperta di piante dimenticate come l'antico mais di Leggio, ma anche i semi di zucca ricoperti di cioccolato al latte, l'allevamento etico, la bacca superfood che rallenta l'invecchiamento e protegge dal fumo, e poi anche la fattoria didattica in Malga. Sono i sei progetti che Coldiretti, giovane impresa del Friuli Venezia Giulia, ha premiato nell'edizione 2019 di Oscar Green. Ad Anna Turato, delegato regionale di Coldiretti Giovani, chiediamo innanzitutto che cos'è Oscar Green. Oscar Green è un concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa e patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole. Quest'anno è arrivato la 13ª edizione ed è un concorso che premia sei categorie di aziende che si distinguono per il loro lavoro e per le loro progettualità. Le categorie sono sei, per l'appunto: campagna amica, sostenibilità, noi per il sociale, fare rete, creatività e impresa 4.terra. Sei categorie che si spiegano e si commentano da sé, ma che sono fondamentalmente accomunate da un principio fondamentale, che è quello di valorizzare e premiare quelle aziende che propongono un modello di sviluppo sostenibile, che quindi valorizzi un'agricoltura italiana di qualità nel rispetto dell'ambiente e ovviamente della società, della collettività. Due di questi progetti si sono qualificati per le finali nazionali, parliamone. Il primo per la categoria sostenibilità, Marco Zozzoli, dell'azienda agricola Il Vecchio Mulin di Leggio. Marco è un ragazzo che ha fatto della propria azienda una vera e propria officina della biodiversità, perché con la sua passione per la riscoperta delle varietà antiche ha introdotto nella sua azienda appunto prodotti come il mais gemma di vetro, la mandorla di terra e anche una varietà autoctona, il mais di Leggio, dal quale si ricava la rinomata farina di Leggio, che lui coltiva con metodi di coltivazione rispettosi della natura e dell'ambiente. L'altro progetto per la categoria fare rete, Simone Betto dell'azienda agricola Betto di Pocenia, che assieme al comune di Pocenia, apicoltori, cacciatori, ad un'azienda che produce mobili ecosostenibili, hanno avviato questo progetto che si chiama Facciamo Habitat Insieme e che si realizza nel favorire delle aree, degli habitat dove si possano sviluppare gli insetti pronubi e dove si potrà anche un domani sviluppare l'antagonista naturale della cimice marmorata asiatica. Tra le finalità anche a carattere sociale, in previsione di fornire anche del miele alle famiglie più bisognose, è anche interessante il fatto che nella rete partecipa anche un'azienda che appunto produce mobili ecosostenibili e l'idea è quella di produrre una cera d'api 100% naturale con la quale fare la finitura dei mobili. Cosa si vince? c'è un riconoscimento, ovviamente si ha la possibilità di essere messi in vetrina da un certo punto di vista, ed è secondo me un segnale molto positivo, perché si fa così capire che anche, insomma, in un contesto odierno, in un settore dove comunque si vede che c'è una riscoperta, una voglia di investire, di fare, c'è la possibilità veramente di spaziare, di fare molto, ed è anche un segnale positivo perché fa vedere che i giovani ci sono e che in agricoltura sono degli attori importanti per quello che è il nostro tessuto economico. Oggi Enos Costantini ritorna sul tema del consumo di carne, un dibattito oltremodo vivace che gli avrebbe fatto perdere un'amicizia a cui teneva molto, in quello di Surisins. Ho perso un'amicizia e ciò mi amareggia. Non con il leone da tastiera che mi manda ruggiti da coniglio, bensì con la signora Susanna, 53enne, piacente quanto poca ed esperta di letteratura americana quanto nessuna. Tutti buoni argomenti per intrattenermi con lei nei brevi periodi di vacanza che trascorre a Surisins di Sotto, nella filologicamente restaurata casa contadina dei nonni. Vegetariana, animalista ed ecologista sono aggettivi di cui lei fa una bandiera e stimolano discussioni impegnative, ma rese fluide da certi vinelli bianchi della Loira, retaggio di un qualche lontano suo marito. E, siano benedetti gli animalisti non massimalisti, il tutto è corroborato da fette di pitina che mangio io e da crosta di polenta che mangia lei. L'ultima volta il discorso cadde sull'esagerato consumo di carne nei paesi occidentali e sul crescente consumo della medesima nei paesi emergenti. Concordammo sul fatto che si tratta di un disastro planetario, aggravato dalle emissioni di metano da parte di ruminanti. Concordammo anche sul fatto che una nutrizione degli stessi basata sull'erba ne ridurrebbe il numero e avrebbe un impatto positivo e non più negativo sull'ambiente, sulla fertilità dei terreni e sulle future generazioni. La mia ex amica Susanna ha 3 cani di grossa taglia, diciamo pure formato blu belga, e 3 gatti formato omino Michelin. Così, tra il serio e il faceto, osservai che gli animali da compagnia sono grossi consumatori di carne industriale. E che quindi, ma lo dissi proprio per celia e solo per celia, sarebbe bene per il pianeta levarne un numero più modesto e di minor calibro. L'improvvida osservazione mi è costata una pur bella amicizia, nonché i gradevoli vini della Loira. E così, con profonda mestizia, affranto, afflitto e contrito, sono tornato dalla ostessa, l'austere, di Surisins di sopra, con cui si parla di ordaggi, il cui cagnolino si nutre di avanzi, il cui marito, bisogna dirlo, fa un tocai che guarisce da tutti i guai. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di prati e della loro importanza all'interno della politica agricola comunitaria. Innanzitutto, che differenza c'è tra prato avvicendato e prato permanente? Allora, secondo le regole comunitarie, indipendentemente dalle essenze botaniche presenti, per prato avvicendato si intende una superficie foraggera che occupa continuativamente il terreno da 1 a un massimo di 5 anni. Dal 6° anno in poi, se non si procede a rottura del cotico erboso, il prato viene automaticamente classificato come permanente ed è oggetto di particolare attenzione all'interno della politica agricola comunitaria. Questo perché, anche se utilizzato per pascolo o per ricavarne foraggio, è considerato un elemento benefico per l'ambiente, riserva di biodiversità, utile per la rigenerazione microbiologica dei suoli, per preservare o ricostituire la sostanza organica e prevenire l'erosione. Quindi, da quello che si capisce, su queste superfici sono imposti anche dei vincoli. Allora, con l'ultima riforma della PAC, tra le regole del greening, noto anche come pagamento ecologico, la Commissione ha previsto anche la conservazione delle superfici foraggere a livello nazionale. Pertanto sono stati introdotti limiti alla conversione dei prati permanenti in seminativi. Un vero e proprio divieto esiste solo all'interno dei siti di interesse comunitario delle zone di protezione speciale, i cosiddetti SIC e ZPS. Al di fuori di questi areali la riduzione del prato permanente è possibile, ma è subordinata al consenso dell'organismo pagatore, nel nostro caso AGEA, Consenso che in verità non ci risulta sia mai stato negato, scattano però penalizzazioni per l'azienda in termini di contributi comunitari PAC. E tra i prati stabili entra anche l'erba medica. Ecco, questo è un caso particolare, infatti l'erba medica, il trifoglio o le leguminose, se coltivate in purezza, vengono sempre classificate come seminativi e non come foraggere. Pertanto, anche se coltivate per oltre un quinquennio, non rientrano tra le superfici da assoggettare a mantenimento. Se invece abbiamo miscugli di leguminose o leguminose assieme a graminacee, ritorniamo nel caso più generale. A questo punto, prati permanenti e prati stabili sono la stessa cosa? Eh no, di fatto i prati stabili sono un sottoinsieme dei prati permanenti. La legge regionale 9 del 2015 li definisce come formazioni erbacee costituite da un numero elevato di specie vegetali spontanee che non hanno mai subito dissodamento e vengono mantenute solo con operazioni di sfalcio e eventuale concimazione. I prati stabili sono censiti in un inventario costantemente aggiornato dalla regione e sottoposti alla vigilanza del corpo forestale. In nessun caso possono essere convertiti in seminativo o comunque danneggiati, pena l'applicazione di pesanti sanzioni e l'obbligo di ripristino dei luoghi, sempre ammesso che ciò sia possibile. Per la rubrica dell'olio e dell'olivo, Ennio Scarbolo, dopo le ultime annotazioni storiche, inizia ad addentrarsi in questo universo composto da decine e decine di varietà. Negli ultimi 30 anni la coltura dell'olivo è approdata nell'emisfero sud, in Australia, Sudafrica, Argentina, Brasile, California, Cile e Perù, ossia in territori con un clima molto simile a quello mediterraneo. Teme il freddo, temperature minime inferiori a meno 12-15 gradi sotto lo zero sono letali per la pianta. Ultimamente anche la Cina sta sperimentando l'adattamento dell'olivo nei suoi territori. Di questi paesi l'Australia, Sudafrica e l'Argentina sono i maggiori produttori, di gran lunga inferiori a quelli del Mediterraneo. Molto interessanti gli oli extravergini di olivo provenienti da alcune zone di Cile e Perù. Se andate a Verona in occasione del Vinitaly, ci sono anche degli stand dedicati all'olio d'oliva proveniente da tutto il mondo. Avete l'occasione di assaggiare tutti questi oli. Le varietà di olive maggiormente coltivate sono quelle europee, italiane e spagnole, frantoio, lecino, coratina, piquale e arbechina. Ma furono i romani a diffondere e valorizzare questa cultura perché avevano capito l'enorme importanza che aveva la produzione dell'olio d'oliva. Lo usavano per ungere i guerrieri prima di ogni battaglia, per l'alimentazione umana, per le lampade, da cui deriva il nome di olio lampante. La città di L'Aquileia era un porto importantissimo sul mare Adriatico e meta di scambi commerciali. Come si può immaginare, diffuso questa cultura anche nell'attuale nostra regione e nei territori limitrofi, Istria e tutto il nord Italia. Da allora, per tutto il Medioevo, fino ai giorni nostri, a fasi alterne, la cultura dell'olivo è stata sempre presente nel nostro territorio, salvo eventi climatici disastrosi, in primis inverni molto freddi e nevosi, che almeno 2-3 volte ogni secolo hanno distrutto le piante di olivo. In questo periodo furono i modici benedettini ed altri ordini i veri custodi del patrimonio genetico dell'olivo. Nelle abbazie, per esempio quella di Rosazzo, selezionarono, costruirono, conservarono, crearono nuove varietà di olivo che sono tuttora coltivate. In Italia ci sono circa 580 cultivar autoctone di olivo riconosciute, registrate e descritte all'albo presso il Ministero dell'Agricoltura. Tra i 18 castelli aperti della manifestazione autunnale è visitabile anche quello di Cordovado con il suo giardino e annesso labirinto. Ce ne parla oggi Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini. Alcuni anni fa, proprio durante la manifestazione Castelli Aperti, anch'io ho avuto l'occasione di conoscere questo luogo, per me incantevole, inserito unico in regione nel circuito dei grandi giardini italiani. È un contesto storico, privato, all'interno del borgo medievale di Cordovado, uno dei borghi riconosciuti tra i più belli d'Italia. Accanto al castello, che nei secoli ha assunto i caratteri di villa, vi sono la chiesetta e alcuni annessi rustici, ora ristrutturati, un tempo alloggi di contadini e artigiani, prospicenti piccoli orti e strette calli. Attorno si estende il giardino e il parco proteso verso la campagna, come voluto da uno degli avi delle attuali proprietari, i discendenti dei Freschi e dei Piccolomini. Si coglie una predilezione per le rose, coltivazione che appartiene alla tradizione familiare. Ad occuparsene con amore e competenza è Benedetta Piccolomini, che assieme ai fratelli ha creato anche un labirinto con 2000 rose damascene intrecciate tra loro. A forma di sole, il labirinto è formato da 7 cerchi e un prato centrale che si prolunga verso l'esterno con numerosi raggi. Le piante sono state acquistate in Bulgaria, nella Valle delle Rose, dove vengono coltivate per ricavare l'olio essenziale. Le talee furono messe a dimora nel novembre 2015, secondo i principi dell'agricoltura biodinamica. Le rose sono cresciute rigogliose e ogni anno inondano di un profumo intenso il labirinto, dove le persone possono camminare con i propri ritmi e sentirsi in sintonia con la natura. Nei prati vicini gli agricoltori hanno riportato gli alveari e le api non si ammalano più. Così spiega la signora Piccolomini, esperta di rose antiche, che tra l'altro collabora al progetto per il nuovo giardino terapeutico dell'ospedale San Camillo di Venezia. La visita al castello di Cordovado è consigliata in tutte le stagioni per le collezioni botaniche, la bellezza e la cura del contesto, l'armonia e la sensibilità ecologica. Ora il labirinto è tutto verde, ma percorrerlo è ugualmente suggestivo. Per vederlo nella spettacolare fioritura dobbiamo aspettare la prossima primavera. Con il nostro Sandro Menegon continuiamo la rubrica dedicata alle tame, riprendendo i sistemi di concimazione adottati in Malga. Generalmente nei capitolati di affitto che regolavano la conduzione dell'alpe venivano riportate anche le norme sulla distribuzione delle deiezioni animali sul pascolo. Nei mesi di settembre e ottobre di ciascun anno il letame già depositato nelle concimaie dovrà spargersi sulle malghe stesse, variando ogni anno la località alternativamente a ciò che il pascolo acquisti maggior vigore. L'obbligo di variare ogni anno la superficie da concimare voleva eliminare l'eccessivo accumulo di nutrienti che favoriva lo sviluppo della flora nitrofila, romici, ortiche, eccetera. Nella scorsa puntata si era accennato all'influenza dei parametri climatici geomorfologici. Sì, sacrosanta la rotazione delle aree da concimare, poiché l'accumulo di sostanza organica era anche da attribuirsi alla lenta decomposizione delle deiezioni, dovuta alle basse temperature e al manto nevoso che copriva per un lungo periodo dell'anno la superficie del suolo, che rallentavano lo sviluppo e l'attività della flora praterica responsabile della decomposizione stessa. Geomorfologia. Certamente è chiaro che il sistema di fertirrigazione permetteva l'ingrasso delle parti di pascolo sottostanti punti di raccolta di deiezione. E mancanza di acqua, nel caso di estese superfici pascolative sopra i fabbricati, il letame si distribuisce mediante trasporto a gerla. Penso sia opportuno ricordare che il J-COS, per chi lo avesse visto solo in qualche museo appeso come ornamento, in qualche abitazione non era semovente. Inoltre, cosa si può aggiungere in questo ambito? Verso la fine del 1800 i tecnici della cattedra ambulante dell'associazione agraria suggerivano delle innovazioni e proponevano di bandire concorsi a premi per proprietari e conduttori, al fine di migliorare fabbricati e pascoli, ma lo scoppio della Grande Guerra non solo bloccò tutte queste iniziative, ma dopo l'armistizio risultavano danneggiate circa 100 malghe. Ad iniziare dal 1921 si progettarono e si eseguirono lavori di costruzione e manutenzione, specialmente per i sistemi di raccolta e conservazione delle deiezioni. Queste ricostruzioni migliorate furono imitate in molti casi e, a parte una più o meno razionale manutenzione, rimasero tali fino alla cessata pratica della monticazione di molti alpeggi. e con Reginetta Giacomini l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo e prezzi stabili venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,60 e 15,80 euro al quintale IVA esclusa, la soia fra 32 e 32,50 euro, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,30 e 15,80, il frumento tra 16,80 e 17,10. Rispetto a un anno fa il mais è diminuito di 1 euro e il frumento di 2,20 euro il quintale. Prezzi costanti all'orto frutticolo di Udine, con insalata Gentile e la lattuga Trocadero pagate all'ingrosso tra i 90 centesimi e 1 euro il chilogrammo, IVA esclusa, le zucchine tra 80 centesimi e 1,10 euro, le melanzane tonde tra 1,30 euro e 1,40 euro, la scarola riccia tra 2,50 euro e 2,70 euro, i pomodori italiani in grappolo e i finocchi tra 1,30 euro e 1,50 euro, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso Precroce tra 2 euro e 2,50 euro, i peperoni gialli e rossi fra 1,20 euro e 1,50 euro, i cavoli fra 1,40 euro e 1,50 euro, le patate novelle fra 70 e 90 centesimi, i kiwi tra 2 euro e 2,30 euro, i meloni tra 1,30 euro e 2 euro, le mele gala tra 1,20 euro e 1,50 euro, le fuci tra 1,40 euro e 1,50 euro, le pere abbatte tra 1,80 euro e 2,40 euro, le pere Williams tra 1,70 euro e 1,80 euro, l'uva tra 80 centesimi e 1,80 euro al chilo. Settimana positiva nel settore della pesca, alla cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono stati quotati tra 18 e 23 euro il chilo IVA esclusa, le orate tra 11 e 25 euro, le sogliere tra 10 e 20 euro, le canocce tra 11 e 13 euro, le seppie 11 euro, i laterini 10 euro, le passere da 13 a 16 euro, le anguille a 18 euro, le mormore da 13 a 15 euro, il palombo da 3 a 8 euro, i cefoli da 1 euro a 7 euro, le triglie a 3 euro al chilo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanuto, sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Correnti nord-occidentali in quota richiamano a tratti sulla nostra regione aria più umida negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Nella notte, tra domenica e lunedì, un fronte freddo passerà le Alpi occidentali e formerà poi sul Tirreno una depressione, la cui posizione non è ancora ben determinata e che richiamerà però correnti di bora al suolo. Domani, di primo mattino, avremo nubi residue su bassa tenore costa, ampie schiarite sul resto della regione, con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano. In giornata, cielo in genere sereno o poco nuvoloso, soffierà bora in genere moderata. In serata, aumento della nuvolosità. Martedì mattina saranno possibili nubi basse, ma in giornata avremo cielo sereno o poco nuvoloso e in serata aumenterà nuovamente la nuvolosità. Mercoledì una sfaccatura transiterà sul nord Italia, richiamando correnti sirocali al suolo, da sud-ovest umide in quota. Al mattino aumenterà progressivamente la nuvolosità. Dal pomeriggio avremo le prime piogge sulle prealpi e in pianura. In serata rapido e deciso peggioramento con piogge diffuse e abbondanti e neve in montagna e scirocco sulla costa. Giovedì lento miglioramento con venti da nord. Da venerdì e forse per intero fine settimana il tempo sarà discreto, senza precipitazioni, con temperature massime sui 20-23 gradi e minime sui 7-10 gradi circa. Dato l'anticipo, vi consiglio comunque di seguire gli aggiornamenti che saranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. A San Simon si già verrà a Ferravizzon, ovvero a San Simone il 28 ottobre si raccoglie tanto la rapa che il ravizzone, la brassica rapa subspecie campestris, pianta annuale o biennale simile alla colza della famiglia delle brassicace. Viene coltivato nell'Europa centrale e settentrionale e in Italia principalmente nella pianura padana. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita.